19 minuti, torniamo in voce come preannunciato. Parliamo adesso di fare la differenza, un ciclo di incontri che si sono tenuti all'interno delle scuole del sesto municipio. Questa settimana c'è l'ultimo incontro, venerdì 2 maggio, presso la scuola Francesco Baracca, un incontro tematico sui disturbi alimentari, riflessioni sui disturbi alimentari in relazione alla crescita e ai modelli culturali. Abbiamo in diretta con noi una delle compagne, delle donne, insomma, che si è occupata di organizzare tutto questo ciclo. Siamo giunte alla conclusione, insomma, non so se vogliamo fare un po' un'analisi finale, raccontare come sono andati tutti gli altri e poi presentare quello di questo venerdì. Ciao, ci senti? Sì, ti sento, ciao. Allora, difficile questa cosa che mi chiedi. Siamo alla conclusione di questi cicli. Inizio dal principio della tua presentazione, grazie intanto. In realtà erano le scuole dell'IC Ferraironi, che okay. È una delle scuole del quinto municipio, perché adesso è quinto, scusa, niente. Siamo quinto, vabbè, comunque non è quello, erano le scuole dell'Istituto Comprensivo Ferraironi, quindi Balmasì, Pisacane e Francesco Baracca, alcune delle scuole dell'IC, perché l'IC ha 5 scuole. Comunque diciamo che 22 maggio, venerdì prossimo, presso la scuola media, che si trova a via Ugo Guattari 45, Francesca Tonucci, che è una psicoterapeuta che si occupa di disturbi dell'alimentazione, appunto ci guiderà nelle nostre riflessioni sui disturbi alimentari in relazione alla crescita e ai modelli culturali, in particolare in relazione agli stereotipi di genere che vengono veicolati comunque dalla nostra cultura, appunto dai modelli culturali. Abbiamo scelto come sede per questo ultimo incontro la scuola media, perché questo tipo di disturbi emergono soprattutto nella fascia d'età che va, appunto, dei ragazzi e delle ragazze che frequentano le medie, però molto spesso hanno origine nell'infanzia, appunto, sono disagi legati a disturbi legati a disagi familiari. Comunque, diciamo, il quadro poi può essere molto complesso, diciamo, io non sono una psicoterapeuta, quindi sto anche sicuramente banalizzando tutta la questione, no. diciamo che il trucco è che prima se ne parla meglio è, e che nelle scuole tutto questo aspetto che riguarda l'alimentazione, o comunque i sintomi delle manifestazioni, sì, corporee, ecco, di disagio, per esempio penso per esempio a disturbi come malattie come l'anoressia, la bulimia, che colpiscono molte ragazze in età anche ormai preadolescenziale, quindi sì, è importante saper riconoscere i primi segnali. Notevolmente, sì, questo dalla chiacchierata prima dell'incontro che abbiamo fatto con lei pare si sia abbassato. Comunque io non vi voglio dire tutto, perché sennò poi non venite all'incontro. Però insomma sarebbe molto importante, cioè secondo me è molto importante parlare nelle scuole, perché le insegnanti, che comunque anche durante il momento del pasto, che è comunque un momento educativo, possono dirci tante cose. Se c'è un'attenzione, chiaramente, se c'è una consapevolezza di quali possono essere i sintomi, no? Sì. Quindi è buono dotare anche gli insegnanti di alcuni strumenti per riconoscere, sì, i primi segnali. Sì, genitori, anche genitrici, diciamo. Questo per quello che riguarda venerdì. Gli altri incontri sono stati molto diligentemente monitorati e in alcuni casi anche registrati da voi, di cui abbiamo parlato già varie volte. Io vi faccio un breve riassunto. Abbiamo fatto un primo incontro con il Teatro dell'Oppresso, che ha portato uno spettacolo che è stato prima fatto in alcune classi per i bambini e le bambine dalla seconda elementare in poi, sugli stereotipi di genere, e poi abbiamo fatto nella versione, diciamo, dove hanno partecipato gli adulti. E lì diciamo abbiamo tirato fuori tantissimi argomenti, la discriminazione, l'inclusione o l'esclusione, insomma, di bambini o bambine che non rispecchiano gli stereotipi, diciamo, veicolati dalla nostra cultura, che sempre banalizzo, però appunto c'era la scenetta del bambino che voleva giocare con l'orsacchiotta perché gli aveva messo un mantello rosa e gli diceva no, ma questo è un gioco da femmina, quindi si poteva, il pubblico poteva intervenire e cambiare la scena, o comunque anche non rifacendo la scena, chi non si voleva proprio mettere in gioco si poteva dire la propria e provare a capovolgere la questione, risolvere la questione in un altro modo. Sì, diciamo che banalizzi, ma in realtà banalizzi su qualcosa che succede ancora molto frequentemente, sì, quindi in realtà... Sì, certo, infatti. E questo discorso degli stereotipi di genere in realtà anche sui prodotti, sui giocattoli, sui libri, è un discorso che abbiamo per esempio affrontato con Loredana Lipperini nel in uno degli incontri, in un altro degli incontri con Loredana Lipperini abbiamo affrontato proprio questa questione. Un po' ad ampio raggio, parlando sia della rete, dove appunto la violenza è sdoganata dal fatto che non hai nessuno in presenza, quindi puoi scrivere e dire quello che ti pare, e questo però purtroppo non riguarda solo i ragazzi, cioè l'insulto è stato sdoganato dagli adulti, che però poi appunto ragazzi, bambini ci guardano, e questo si fa, diciamo, spesso e volentieri. Libro che vi voglio segnalare, visto che ci sono, che si chiama Parole tossiche, di Graziella Priulla, che parla proprio di questo, della violenza in rete. Un altro incontro molto interessante è stato quello con un insegnante che si chiama Pina Caporaso, che anche lei da questi microfoni spesso è stata chiamata, interpretata. Sì, sì, siamo grandi fan qua di Pina. Siamo tutte grandi fan, la vorremmo tutte quante vicine tutto il giorno, perché ci sta un sacco simpatica. È stato molto interessante perché ha dato proprio degli strumenti per la didattica, con esempi, con slide, insomma è stato uno degli incontri più partecipati, devo dire, e quello che ci ha lasciati maggiori stimoli per riflettere e per il futuro, speriamo, insomma, perché poi l'obiettivo di questi incontri è quello che poi all'interno della scuola o delle scuole si cominci proprio praticamente a modificare tutta quella, intanto che insegnanti e genitori, gli adulti soprattutto, scusate, prendano consapevolezza del fatto che anche se noi pensiamo di essere diciamo liberati su questa cosa, come? Liberati? Forse. Sì, liberati, ma anche diciamo, ma sì, a prescindere da quello che si pensa, diciamo, lo strumento che bisogna avere è quello che ci consente, cioè bisogna acquisire diciamo una consapevolezza che ci permetta di metterci in discussione, che è la cosa più difficile, e di guardarci, perché poi appunto bambini e le bambine ci guardano, e i modelli di attaccamento, i modelli familiari, i modelli relazionali che noi comunque, anche non parlando, proprio nella nostra vita, quello che noi proprio come viviamo, e quello è l'esempio maggiore, quindi cioè, al di là di quello che si dice, poi bisogna proprio un po' ripensarsi e ripartire da sé, come si diceva un tempo, però è sempre molto attuale, perché poi appunto il modello che si veicola è quello che fa la differenza, appunto. Sì, per l'appunto. Per autocitarsi. Quindi insomma un lavoro grande avete fatto quest'anno. Abbiamo fatto un lavoro grande, io spero che, insomma, speriamo che cioè, insomma, io spero che, ma sono convinta, insomma, che potremmo in qualche modo metterlo a frutto. Veramente questo di venerdì prossimo non è un ultimissimo incontro, perché abbiamo deciso così, diciamo, fuori onda di fare un incontro conclusivo, sempre con l'ausilio di Olivier Malcord del Teatro dell'Oppresso, per tirare fuori, invitando le persone che hanno partecipato ai vari incontri, che poi più o meno alla fine si è formato un gruppo abbastanza numeroso, e più o meno sempre di stesse persone che hanno fatto tutto questo percorso insieme, quindi diciamo poi L'idea è quella di non fermarsi, quindi mettere dei paletti per ripartire l'anno prossimo o per provare a fare una mozione al Consiglio d'Istituto. Ancora non sappiamo bene, però c'è un ultimo incontro conclusivo che probabilmente si farà fuori dalla scuola, perché non faremo in tempo a farlo prima che la scuola chiude, che ci servirà proprio per rilanciare per il prossimo anno. Vediamo. Perfetto, succede. Va bene, allora rilanciamo l'appuntamento, quindi venerdì 22 maggio presso la scuola Francesco Baracca in via Guattari 45, quinto municipio. Sì. E sì, insomma, incontro tematico del ciclo Fare la differenza, vicino a Villa De Santis. Vicino a Villa De Santis, ok. Va bene, c'hai tutti i contatti se vuoi darli, cioè sia una pagina Facebook che sia una email a cui chiedere le informazioni. Sì, fare la differenza @inventadi.org. E no, la pagina Facebook non ce l'ho, però vabbè, vi trovano, dai. Sì, si trova in rete. Comunque se mettete su Google "iniziamo a parlarne", che era il titolo degli incontri dello scorso, no, esce fuori, o affettività, iniziamo a parlarne, affettività, qualcosa del genere. Okay. Esce fuori la pagina. Perfetto, va bene, ti ringraziamo tanto e niente, poi magari ci risentiamo dopo l'incontro conclusivo per capire come vi organizzerete per il prossimo anno, che cosa vi ha portato questo anno di incontri. Va bene, grazie. Grazie a voi, ciao. Grazie, ciao, ciao.